Con Sofia di Scoop Sport e Cultura Popolare per parlare di due prossime iniziative, il 19 e il 21 dicembre 2021. Ben trovata! Ben trovato Federico, ciao, saluto tutte e tutti. Sì, praticamente il nostro spazio è sotto sgombero. Il 31 dicembre è arrivata questa mail, questa PEC dalla proprietà, che è RFI, che ci dice di lasciare lo spazio perché dovranno vendere tutta quanta l'area. E le prossime iniziative che faremo, prima di tutto voglio invitarvi all'assemblea del 21 dicembre, di martedì prossimo alle 18 a Scoop, contro lo sgombero, perché chiaramente questa decisione, diciamo, presa da RFI ha trovato anche da un certo punto di vista un vuoto dal punto di vista della politica, che non si è ancora definita ed espressa rispetto a questa situazione. Noi siamo al centro di un grande progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Roma della giunta precedente attraverso il bando Reinventing Cities C40, e quindi il nostro spazio rischia di essere messo sotto sgombero da un'operazione che in realtà intende privatizzare tutta quanta l'area, costruendo uno studentato e altro residenziale, cemento e nessun servizio pubblico per i cittadini. Quindi di fronte a questa cosa noi ci sentiamo di essere non solo uno spazio della città che produce, insomma abbiamo fatto anche la presentazione del tuo libro, facciamo costantemente iniziative culturali, ospitiamo riunioni di presidi come quello di Libera del Settimo, ma anche la rete ecosistemica, Black Lives Matter Roma, tantissime realtà associazioni si riuniscono da noi, e quindi perde tutta quanta la città, ma perde tanto più perché si perde anche, si strappa un'altra volta, un'altra esperienza di comunità. Noi saremmo al quarto sgombero violento che subiamo, semplicemente perché non c'è una reale volontà dal punto di vista della politica di trovare una soluzione alla nostra esperienza, che vuol dire rimanere in quei capannoni, perché noi negli anni abbiamo continuato a costruire e a riconnettere il tessuto sociale, abbiamo continuato ad offrire esperienze, siamo uno spazio del possibile, siamo uno spazio di educazione democratica, di educazione alla cittadinanza, abbiamo realizzato i laboratori di progettazione partecipata là dove c'era un vuoto dell'amministrazione rispetto al destino di quell'area e alle trasformazioni urbanistiche, abbiamo avviato un forum proprio per occuparci di questa situazione con i cittadini, le cittadine e tutte quante le realtà che hanno voluto partecipare e unirsi. E in questo senso credo che sia importante essere presenti il 21 a Scoop alle 6 all'assemblea cittadina che abbiamo convocato, all'assemblea pubblica che abbiamo convocato, perché è una soluzione che va risolta assolutamente. In tutto questo, tra i tanti progetti che appunto, di cui, le iniziative che seguiamo e di cui siamo parte, c'è anche la festa del 19, che è la festa delle economie sociali e solidarie, un percorso che seguiamo ormai da anni e di promozione di quella che è la filiera alimentare a sfruttamento zero, anche attraverso i progetti per esempio della rete Fuori Mercato, di Rimaflo e di tanti altri spazi che appunto riappropriandosi per esempio di fabbriche o di terreni pubblici hanno attivato un processo economico virtuoso basato appunto su il giusto compenso per chi lavora la terra nel rispetto anche appunto dell'ambiente e dei territori e costruendo comunità. Quindi questo più o meno è l'invito che faccio, cioè a chi si sente privato in una città frammentata all'indomani della pandemia, dove c'è un altissimo tasso di povertà, di polarizzazione sociale e di disagio complessivo, a unirsi perché questi spazi che sono spazi di libertà e di costruzione di senso non vengano distrutti. Nella nostra situazione, ma in termini diversi, sono chiaramente anche le esperienze di ESC e di Comuni qui a San Lorenzo. E io in questo momento mi trovo a San Lorenzo perché oggi ci sarà l'assemblea di Comunia per l'appunto. E perciò invito tutte e tutti appunto a partecipare il 21 a Scoop e a passarci a trovare anche domenica 19 alla festa dell'economia sociale e solidaria, in cui si vuole mettere al centro della discussione proprio il tema di come cambiare questo sistema di sfruttamento che toglie terreno, opportunità e possibilità al nostro futuro per costruire un'economia diversa. Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli? Certo, cioè sulla pagina Facebook di Scoop, Sport e Cultura Popolare, si trovano tutte quante le informazioni sugli eventi insomma a venire. Abbiamo anche lanciato una campagna social video in cui invitiamo tutti quanti a farsi promotori della nostra vertenza, cioè a mandare una propria foto e pubblicarla sul proprio sito, sulla propria pagina, dicendo Scoop non si sgombera, la rigenerazione siamo noi, perché la rigenerazione urbana che oggi occupa le città è per lo più speculazione, privatizzazione, e insomma il svuotamento di senso dei quartieri e di comunità dai quartieri. E quindi vi invito a pubblicare sulle vostre pagine appelli, comunicati, a interessarvi, a seguirci, perché abbiamo veramente bisogno del sostegno popolare di tutte e tutti. I prossimi due appuntamenti di Scoop, Sport e Cultura Popolare, domenica 19 e martedì 21 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Sofia. Un abbraccio solidale. Un abbraccio grande, grazie mille Federico. Buona trasmissione. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il cosceneggiatore e regista Teemu Nikki e il cosceneggiatore e produttore Gianni Poso sul loro film NIMBY, Not in My Backyard, al cinema e online su iWonderful da martedì 14 dicembre 2021. Traduzione a cura di Eco Group. Let me introduce to Teemu Nikki, the director of NIMBY, e Gianni Poso, the producer of NIMBY. Hello. Ciao. Come lo descriverebbe il suo film in poche parole? È una commedia nera su persone tolleranti che si comportano da intolleranti. Come nasce il progetto? È un'idea che è nata molto tempo fa, perché ho scoperto di non essere così tollerante come io pensavo di essere. E ne ho parlato di questo con Gianni, che aveva la stessa sensazione, e l'argomento è come delle persone che si dicono tolleranti poi in realtà scoprono di non esserlo. Chiaramente quando un argomento non tocca da vicino è facile dire di essere tolleranti, e quindi ho deciso di indagare su questo aspetto e quindi di scrivere il film. Per esempio, sono totalmente intollerante verso le persone omofobiche. Com'è stato il processo di costruzione del film, soprattutto in fase di sceneggiatura? Gianni dice, abbiamo scritto tantissimo, scrivevamo in tutti i momenti possibili. Timo aggiunge, il processo di scrittura è stato quello solito di qualsiasi lungometraggio, abbiamo scritto molte versioni. Alla fine, diciamo che non erano diverse una dall'altra. Abbiamo a questo punto scritto una sinossi, un schema del film in cui dovevamo capire come interagivano i vari personaggi, e Gianni aggiunge, sì, questa non è stata la parte più difficile è stata quella di trovare i soldi per il film, quindi presentare la storia e avere i finanziamenti. Ecco, proprio sul discorso della produzione, è stata una produzione entusiasta dell'idea e senza interferenze? No, in realtà il film è al 50% tra me e Teemu, quindi se qualcuno interferisce siamo noi stessi. Si parla di due grandi temi, quello dell'orientamento sessuale e quello delle migrazioni, che sono questioni internazionali, in ogni latitudine quasi, a livello globale. Ecco, secondo lui, secondo loro, come nascono queste paure che si assomigliano un po' in tutte le parti del mondo? Penso che l'argomento sicuramente è generale, l'atteggiamento verso quelli che sono diversi da noi, ed è lì che nascono le paure, perché noi non parliamo con le persone che sono diverse da noi, ne abbiamo paura. Se noi comunicassimo con loro, queste paure svanirebbero. Quindi se noi ci confrontassimo veramente con le persone diverse, o che la pensano diversamente da noi, noi smetteremmo di avere paura di loro, smetteremmo di avere questi timori, queste paure. E il motivo di queste paure quali sono? Di qualche motivo? Politici, religiosi, ma anche relativi all'educazione che si riceve. Di solito questo è l'argomento principale, perché ci si insegna che siamo diversi dagli altri, anche se invece non lo siamo. E Yani ha appena aggiunto che alla fine di questa intervista bisognerebbe sentirsi emergere come chiusa, gli fanno un vestito sbagliato. Si parla di una situazione spinta all'estremo. Che situazione si vive poi quotidianamente in realtà in Finlandia? La prima parte della domanda, la seconda è come è stato accolto il film? La situazione in Finlandia è un po' la stessa negli ultimi anni, la destra è cresciuta come nel resto d'Europa, e in alcuni posti è un po' come quello che si vede nel film. Però possiamo dire che l'estrema destra finlandese è meno estrema di quella in altri paesi europei. Nell'ultima settimana, per esempio, si è avuta notizia di 3 ragazzi sui 25 anni che sono stati beccati dalla polizia e stavano preparando un attentato terroristico. Da 2 anni la polizia era sulle loro tracce e ha sventato questo attentato. Quindi una cosa preoccupante. In un certo senso la situazione appunto in Finlandia è, diciamo, migliore rispetto a paesi come la Polonia o l'Ungheria, ma per altri versi è abbastanza simile a quella che c'è in altri paesi europei, dove la destra è cresciuta, sta crescendo. Certo, non ci sono situazioni estreme come quelle di barricarsi in casa come nel film. Per esempio nel film, nei neonazi, c'è il capo che è veramente uno pericoloso e convinto, gli altri sono solo degli stupidi che non hanno niente da fare e si tirano dietro. Per quanto riguarda invece l'accoglienza dei film in Finlandia, abbiamo avuto dalle 5 stelle alle 0, cioè o 5 stelle o 0 stelle. Era molto polarizzata la critica rispetto al film, alcuni l'hanno adorato, altri invece l'hanno odiato, ma non abbiamo avuto da nessuno 3 stelle, cioè o 5 o 0. Purtroppo nel momento in cui è stata la prima mondiale, la prima in Finlandia, è arrivato il Covid, per cui la situazione era veramente terribile e quindi per molto tempo non è successo molto, e quindi è meraviglioso adesso essere qui in Italia e il film venga distribuito e proiettato. Un'ultima domanda, una carriera, un percorso artistico quasi trentennale, come si inserisce questo film nella sua esperienza artistica? È un buon inizio. Un saluto, un ringraziamento e un in bocca al lupo. Ciao! Il cosceneggiatore e regista Teemu Nikki e il cosceneggiatore e produttore Jani Poso sul loro film NIMBY, Not in My Backyard, al cinema e online su iWonderful da martedì 14 dicembre 2021. Traduzione a cura di Eco Group. Con Fabio Massimo Lozzi per presentare il suo documentario Corpi Liberi. Ben trovato. Ben trovati a voi. Che racconto è? Prende le mosse da un evento che secondo me va considerato in un certo senso storico, perché è il racconto del primo Sapienza Pride, che è avvenuto nel 2018, organizzato da un collettivo LGBTQIA Prisma, l'unico collettivo di questo tipo all'interno dell'Università La Sapienza, e ricordiamo che La Sapienza è la più grande università d'Europa, e quindi aveva un carattere particolarmente significativo che nella più grande università d'Europa finalmente ci fosse una presenza manifesta e chiara della comunità LGBT, soprattutto per quanto riguarda tutte

14 dicembre, in contemporanea con la partecipazione all'Asti Film Festival lo stesso giorno, e poi la terza anteprima di dicembre sarà il 17 a Napoli all'O Movies, che è un altro importante festival di cinema LGBT, per poi riprendere dopo le feste nella seconda metà di gennaio, quando il film inizierà ad essere presentato in giro per l'Italia nelle sale e reso disponibile anche per streaming grazie al distributore OpenDDD, Distribuzioni dal Basso, che è una realtà molto bella di distribuzione cinematografica che in qualche modo, anzi in tanti modi, sposa i contenuti e lo spirito con cui è stato realizzato questo film. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Noi siamo su Instagram chiaramente con corti_liberi e su Facebook basta cercare Corpi Liberi Film, e poi chiaramente per qualunque informazione si può sempre cercare Fabio Massimo Lozzi sia su Facebook che Instagram. Documentario Corpi Liberi in tour. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Massimo Lozzi. A presto! Un saluto a voi e a presto, spero, a tutti e tutte. Con Flavio Gianandrea De Angelis, regista del documentario Il Sole Sorge a Sud, presentato a Roma alla Casa del Cinema venerdì 17 dicembre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti. Che lavoro è questo? È iniziato nel 2017, quando mi è stato proposto di andare per 2 settimane circa in Etiopia, nello specifico vicino Mekelle, nel paesino di Kwia, dove c'è questo ospedale gestito in collaborazione tra 2 associazioni italiane che sono Lazio Chirurgia Solidale e Evo Modena, insieme al Ministero della Sanità Etiope. La particolarità dell'ospedale è quella che le cure sono gratuite, a differenza della sanità in Etiopia in generale, che invece è privata, quindi spesso la problematica principale è che, essendo comunque un paese povero, le persone spesso non riescono ad affrontare le cure per una questione economica, mentre questo ospedale fornisce delle cure gratuite ed opera da 25 anni. Quando sono andato lì, per prima cosa mi sono dovuto ambientare, quindi capire dove mi trovavo, anche perché mi sono ritrovato appunto in un paese completamente diverso dal nostro. Il primo passo è stato quello di conoscere la cultura e come funzionava il paese. Sono state 2 settimane molto intense, ero attivo dalle 12 alle 14 ore al giorno. È stato tutto un progetto un po' in itinere, quindi nel momento in cui siamo arrivati lì ci siamo chiesti quale fosse il modo migliore per raccontare la realtà dell'ospedale, e principalmente ho seguito 2 personaggi oltre ai medici volontari che si trovavano lì nella missione, che sono una donna che era paziente lì nell'ospedale e doveva fare un'operazione per rimuovere una forma di tiroidismo tipica dell'Etiopia che si chiama gozzo, e invece l'altro personaggio è una bambina che vive lì, sta nel reparto di pediatria. Il percorso è stato realizzato mentre ero lì, sia la fase di scrittura che di ideazione, e poi si è risolto tutto principalmente nel montaggio, quindi quando sono tornato è stato anche quello un lavoro più o meno di un anno, perché il materiale era tanto e riuscire a mettere insieme una storia che avesse un filo narrativo non è stato semplice. Soprattutto perché appunto era per me la prima esperienza di lungometraggio. Fino ad allora io ho realizzato solo dei cortometraggi che arrivavano ai 5 minuti e mi sono ritrovato a dover montare e dirigere un film di 48-50 minuti. È stato molto bello e formativo. Ecco, proprio a questo proposito, che esperienza umana e professionale è stata? Professionalmente è stato bello, perché non si ha tutti i giorni la possibilità di girare un documentario in Africa, soprattutto dal momento che avevo 19 anni, quindi ero molto giovane. Quindi sicuramente è stato un immergersi in una realtà completamente diversa, e quello che ho cercato di fare era appunto, con i miei occhi e le mie orecchie, cercare di far arrivare la realtà a chi l'avrebbe visto. Quindi principalmente quello che ho fatto è stato questo. Quindi professionalmente mi ha aiutato, mi ha dato molta più consapevolezza su cosa significa fare un film o comunque ritrovarsi nella produzione di un documentario. Dal punto di vista umano sicuramente è un'esperienza non facile, perché l'Etiopia è un paese difficile, soprattutto per la cultura che è molto diversa e perché il principale ostacolo era la comunicazione, in quanto non parlano l'inglese. E quindi sono dovuto ricorrere alla gestualità per riuscire a entrare in contatto con le persone che vivevano all'ospedale. E per quanto riguarda la situazione sanitaria, che impressioni ne hai ricavato? Non è facile, come dicevo prima, essendo un paese povero, essendo la sanità privata, spesso mi sono ritrovato di fronte a situazioni che, rapportate a quello che viviamo qui in Italia, mi hanno fatto rendere di conto di quanto in realtà la nostra sanità sia forse una delle migliori al mondo. Allo stesso tempo, stando lì, ho capito veramente quanto fosse importante la sanità all'interno della dimensione di un paese, solo guardando le file di persone che aspettavano per farsi curare, e spesso queste stesse persone avevano fatto viaggi di giorni per arrivare lì. Che fruibilità avrà il documentario dopo la presentazione alla Casa del Cinema? Ci saranno sicuramente altri eventi, altre proiezioni. L'obiettivo appunto è quello di riuscire ad arrivare ad un pubblico sempre più ampio, ma non tanto per il documentario quanto come occasione per parlare del tema dell'Etiopia e dell'ospedale, perché per noi è importante e sicuramente il documentario è uno strumento utile per un dialogo o semplicemente per fare informazione. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è la pagina di Lazio Chirurgia Solidale, sia Facebook che Instagram, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti, e per adesso ancora non c'è un sito, però ci stiamo lavorando. Il documentario Il Sole Sorge a Sud, a Roma, alla Casa del Cinema, venerdì 17 dicembre 2021. Saluto e un ringraziamento al regista Flavio Gianandrea De Angelis. A presto! Grazie, ciao a tutti, buona giornata. Con Enza Negroni della DER Documentaristi Emilia Romagna per presentare il progetto Documentando, l'archivio online del documentario italiano. Ben trovata! Grazie, ben trovata anche a voi. Ci parli di quest'idea? La piattaforma nasce innanzitutto da un interesse da parte dei documentaristi e degli operatori del settore e anche della regione Emilia-Romagna nei confronti di un progetto, di una piattaforma che vuole avere l'obiettivo di raccogliere documentari dal 2000, quindi documentari che sono fuori dal circuito commerciale e che in questa piattaforma trovano una loro sede. Abbiamo 10 aree tematiche, per ora siamo partiti con 170 documentari di 70 autori differenti e l'obiettivo è quello proprio di creare un archivio per la conservazione di queste opere, sia per la loro visualizzazione completa come film, ma anche proprio perché non vengano disperse o perdute. In questo caso ne conserviamo, diciamo, la sopravvivenza, vantaggio sia degli autori ma anche degli operatori culturali, università, scuole che possono avere un accesso libero a questa piattaforma. Come vi siete mossi per creare una rete anche di contatti? Noi nel 2006 partimmo con un database che si chiamava documentando.com, dove raccoglieva centinaia di schede e di trailer di film documentari. E poi con le nuove tecnologie e anche con la messa da parte di Adobe, ci siamo visti costretti a rinnovare la piattaforma e in questo caso abbiamo pensato di ampliarla e non solo vedere dei trailer ma vedere i film. In questo modo l'abbiamo implementata e dando la possibilità anche in un periodo come questo dove le piattaforme sono tante, sono a pagamento, avere una piattaforma libera dove i documentari sia di autori emiliano-romagnoli ma anche da tutta Italia possono essere conservati. Noi abbiamo anche avuto la possibilità di digitalizzare alcuni documentari che erano o in IGV o in Betacam o in questi sistemi ormai obsoleti, e quindi abbiamo anche dato e diamo anche questo supporto agli autori che non hanno la possibilità di digitalizzare i propri film. Come sarà strutturato la piattaforma? La piattaforma documentando.org è divisa in 10 tematiche che possono in qualche modo accompagnare l'utente nella sua visione, se è interessato a società, sport, cultura o biografie, può trovare nella tematica dei documentari che trattano di questo tema. In questo modo si aiuta l'utente a districarsi nella rete di tanti documentari. E quindi una divisione per tematiche è già un primo approccio, e poi sta anche nella conoscenza magari degli autori o anche di alcuni titoli, per esempio, che possono poi dopo essere ritrovati sulla piattaforma. Noi abbiamo iniziato con l'Emilia Romagna, quindi abbiamo contattato tutti i nostri autori presenti sul territorio che ci hanno dato i loro film che non avevano più un circuito commerciale, però nel caso qualche film poi venga richiesto da delle piattaforme come Mubi o altre piattaforme che sono interessate al cinema indipendente, allora potremmo immediatamente dismetterlo e darlo per il tempo necessario o ad altre piattaforme. Ecco, diciamo che questa vuole essere un po' una casa del documentario accessibile e di libero accesso. In chiusura, ci dai tutti i riferimenti web? Su documentando.org dal 15 di dicembre la piattaforma sarà accessibile, e chiediamo anche ad autori che vogliono contattarci attraverso info@documentando.org. Noi possiamo acquisire i documentari con le loro schede, la foto, e metterli online in modo tale che sia sempre una piattaforma in evoluzione, ecco, che non è chiusa, è aperta, e lo streaming serve proprio a dare questa visibilità, questa possibilità di vedersi il film, di fermarsi, di vederne una parte. In questo modo la piattaforma appartiene un po' a tutti gli autori che vogliono in qualche modo collaborare e dare le loro opere, perché spesso nelle biblioteche o nelle videoteche ci sono ancora DVD o VHS anche, però l'idea di inserirli in una piattaforma comodamente da casa, poterli visionare, studiare, approfondire, è l'obiettivo di questo progetto. Documentando, l'archivio online del documentario italiano, un saluto e un ringraziamento ad Enza Negroni della DER Documentaristi Emilia Romagna. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Luca Ricciardi dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare l'edizione numero 0 di Anarchive, Found Footage Fest a Roma, al Live Alcazar dal 14 al 19 dicembre 2021. Ben trovato. Grazie, ben trovato a te. Raccontaci di questo numero 0. Intanto questa iniziativa nasce da un'esperienza che l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico sta portando avanti da diversi anni e che appunto va un po' sotto l'identificativo di Anarchive, che è un termine informatico, come probabilmente sapete, che letteralmente significa dearchiviare, e veniva usato appunto per decomprimere i file zippati, no? E con questo termine abbiamo voluto individuare in qualche modo una piattaforma di attività che l'AMOD porta avanti nel segno del riuso creativo del cinema. Perché, come sappiamo, ovviamente il cinema d'archivio ha una funzione di documento storico, di repertorio, l'ha sempre avuta e continua ad averla, quella ovviamente non la perderà, ma può essere anche utilizzato come materia cinematografica viva e in qualche modo come se fosse un girato. Cioè, in fondo, è vero che l'archivio, il cinema d'archivio, le immagini di repertorio documentano un fatto del passato, ma se quel fatto è passato, non è passato quel documento, fa sempre parte del presente. Quindi in qualche modo Anarchive è un'idea d'archivio in cui l'archivio non esiste, oppure tutto è archivio, no?